Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Improvvisamente l'allegria viene rotta da una voce che gracchiava in un vecchio megafono. Allora, battaglione di disperati, siete pronti? Sì, fu la risposta in coro, accompagnata da remi e pagaie che si alzavano in cielo, come vuole l'antico gesto dei barcaioli. Mi chiamo Giorgio Grisi, ho 45 anni, sono un impiegato tecnico e abito a Santo Stefano Lodigiano, un piccolo paese seduto sulla riva del fiume Po. Come mai il nostro cervello sembra predisposto per apprezzare le storie? E in che modo gli effetti emotivi e cognitivi di una storia che ci viene raccontata possono influenzare il nostro comportamento e le nostre scelte nel mondo reale? Le risposte a queste domande sono radicate nella nostra natura di animali sociali. Noi raccontiamo storie sugli altri e per gli altri. Le storie ci aiutano a restare aggiornati su quello che avviene nelle comunità in cui viviamo. Il mondo immaginario di una storia può essere una sorta di campo di addestramento, un luogo sicuro in cui possiamo allenarci a interagire con gli altri e apprendere le usanze e le regole della società. E la capacità delle storie di persuadere e motivare non ha confronti, perché esse fanno appello alle nostre emozioni e alla nostra capacità di empatia. Io tempo fa avevo letto sulle scienze, quando per un certo periodo della mia vita mi era capitato di tenere in mano questa rivista, che poi è la versione italiana di Scientific American, mi pare, giusto? Avevo letto questa cosa, l'ho cercata al volo prima di andare in onda e l'ho ritrovata. E questo è il motivo per cui esiste questo programma, questo è il motivo per cui è la terza stagione, è il motivo per cui continuiamo a raccontare storie. Perché in qualche modo raccontare storie è un gesto politico. Sembra un'assurdità, ma un pochettino lo è. Buongiorno a tutti, sono le 16:09 di uno splendido martedì 17 settembre 2013. Lentamente l'autunno sta arrivando anche su Milano, l'aria è più frizzante, il cielo è quasi atlantico e le storie che ci arrivano continuano a bollire nel nostro subconscio, ed è per questo che continuiamo appunto a scriverle, a chiedervi di raccontarle e soprattutto a chiedervi di inviarcele. Voi siete qui, @radio24.it. Ognuno di noi ha una piccola storia da raccontare, noi stiamo, anche più di uno ovviamente, però semplicemente ne sceglie una, che è un episodio della propria vita, e ce lo invia in una pagina, non di più, al massimo due. Ogni tanto facciamo questo strappo alla regola, al massimo due pagine, perché appunto nella mappa che stiamo disegnando di non so bene cosa, di quest'epoca, di questo paese, c'è anche il vostro puntino rosso, che è la vostra storia. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma, che è Voi Siete Qui Radio 24, dove ogni giorno pubblichiamo un piccolo pezzo della storia, pubblichiamo una foto e poi, se appunto leggiamo altro, adesso pubblicheremo al volo questo piccolo articolo che avevo letto dalle scienze. La storia di oggi però la storia di Giorgio. La storia di Giorgio parla di un evento sportivo, anche se c'è gente che beve vino e mangia salame, che è la voga longa. Lui ci spiegherà meglio che cos'è. Lui non è un canoista professionista, è uno che semplicemente ama avere una pagaia in mano e una canoa sotto il culo, e semplicemente si fa queste attraversate. Sono 55 chilometri lungo un fiume ed è veramente un'avventura molto lunga. È un'avventura che lui prende un po' sotto gamba all'inizio, ma alla fine riesce a concludere, perché arriva a un certo punto e dice: non ce la faccio più. E invece va avanti. Vi è capitato prima o poi di trovarvi in quella situazione lì, sono sicuro, è capitato a tutti, di avere la sensazione di non farcela, e invece uno alla fine, insomma, se continua e persevera, il risultato lo porta a casa. 349-238-6666, in diretta ai vostri SMS, quando siete andati oltre i vostri limiti, quando proprio eravate al punto di dire: ok, basta, è finita qua, non ce la faccio più. Vale per un lavoro, vale per un'esperienza, vale in un rapporto, qualunque occasione è buona, eppure siete andati oltre quel limite e l'avete portato a casa. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma, che è sempre quello lì, Voi Siete Qui @radio24.it. Nella seconda parte di oggi avremo un ospite che ha a che fare invece molto da vicino col mondo della canoa, e se buttate la mente alle ultime Olimpiadi vi verrà in mente. È Daniele Molmenti, più tardi lo sentiamo in diretta e più tardi vi racconto chi è. Adesso però la storia di Giorgio. Arriviamo in porto a Cremona verso le 7 e già c'è un via vai incredibile di persone, canoe, barche di ogni tipo e documenti di iscrizioni che spuntano da ogni parte. Tutti erano allegri, scanzonati, eccitati come bambini davanti ai giocattoli il giorno di Santa Lucia. La poca tensione rimasta se ne va, il mio stomaco non contiene più farfalline finalmente, e mi sento completamente padrone delle mie forze. sbrigammo velocemente le pratiche di iscrizione e ci radunammo, come richiesto dall'organizzazione, sulla sponda piacentina del fiume, dove una piccola ansa consentiva di raggrupparci senza problemi per attendere lo sparo della partenza. Lì passammo circa 45 minuti di attesa. Quegli istanti mi servirono per sistemare bene le cose all'interno della canoa, in modo tale che non avrei faticato a prenderle nel momento in cui ne avessi avuto bisogno. Intanto mi guardavo intorno per rendermi conto di quanti eravamo. Solo alla fine seppi che gli iscritti raggiungevano quota 1000 e quanto fossero strani alcuni personaggi. C'era una barca a remi tipo veneta sulla quale vedevo sistemati alcuni strumenti musicali, tamburi, trombe, fisarmonica. Un'altra imbarcazione, sempre in stile veneto, era stata adibita a trasporto damigiana di vino, con tanto di tubetti cannucce per i vogatori, pane fresco e tagliere di salumi, su cui spiccavano in bella vista due grossi salami. C'era perfino un gozzo genovese, una di quelle grosse barche che usavano i pescatori in mare, efficace in mare ma lentissima sul fiume. Improvvisamente l'allegria venne rotta da una voce che gracchiava in un vecchio megafono che diceva, il capo dell'organizzazione, diceva: «Allora, battaglione disperati, siete pronti?» Urlò ridendo come un matto. «Sì», fu la risposta in coro, accompagnata da remi e pagaie, che si alzavano in cielo perpendicolari, come vuole l'antico gesto dei barcaioli. La voga longa è una manifestazione non agonistica aperta a tutti gli appassionati del remo, che si effettua ogni anno da Cremona a Casalmaggiore in provincia di Mantova, per un totale di 55 km lungo il fiume Po. Il coro non era ancora terminato che si udì lo sparo. Tutti schizzarono via come fulmini, muovendo un sacco d'acqua, creando onde, mulinelli, sbattendo uno contro l'altro, tra risate e battute. Anch'io partii forte, ma dopo pochi metri capii che certi ritmi mi avrebbero fregato subito, e allora mi diedi una calmata e moderai l'andatura. Qualche istante dopo riuscii a intravedere mio papà sul ponte della provinciale e lo salutai con un groppo in gola tremendo. Per un attimo ero convinto di averlo coinvolto in un'esperienza assurda. Quell'incertezza però passò alla svelta e ripresi tranquillamente a pagaiare con scioltezza. Vidi il gruppo di tutti gli iscritti sgranarsi piano piano e diventare una sorta di processione lungo le sponde del grande fiume che ci stava ospitando. Il serpentone di appassionati era formato da innumerevoli colori, canoe vecchissime e barche nuove, molto veloci. Lo vedevo passare da una sponda all'altra inseguendo il rimbalzo della corrente. Ogni tanto vedevo spuntare dalle piante qualche persona in gita domenicale che ci salutava, sorpresa da tanto movimento. Oppure qualche pescatore che ci mandava a quel paese infastidito dal nostro passaggio, che faceva scappare tutti i pesci. Man mano che passavano i chilometri mi gustavo il paesaggio, così nuovo per me, ma in fondo neppure tanto diverso dalle zone che conoscevo. Boschi di pioppi e di larici, spiagge bellissime, disegnate come dune nel deserto. Piccole anse selvagge, pontili e attracchi improvvisati. Impianti di escavazione delle sabbie dal fondo del fiume con grosse chiatte ancorate e soprattutto ristoranti rustici. Pensai a quando ero piccolino, quando con la mia famiglia e gli amici dei miei genitori e i loro figli ci si trovava con i motoscafi sullo spiaggione di fronte alla cava di Telli e a una certa ora del pomeriggio si partiva tutti insieme destinazione il ristorante Megaton. Così, mi pare si chiamasse, a Castelnuovo, per una merenda a base di pesciolini fritti, che a noi piacevano perché ricordavano le patatine. A un certo punto si spense improvvisamente la luce dei ricordi, distratto da una sensazione crescente di dolore. Sentii le spalle e la zona del trapezio alla base del collo diventare dure, contrarsi, in modo molto strano. In allenamento non mi era mai successo che le spalle mi si indurissero in quel modo. Forse avevo già percorso più dei chilometri abituali. Cercai di stare calmo. Mi fermai per controllare l'ora e la cartina del percorso. Ben presto capii di essere solo al 20° chilometro, a pochi minuti dal primo punto di controllo. Dalla sponda, in corrispondenza di un piccolo pontile privato, spuntò mio papà, con la macchina fotografica pronta a scattare l'ennesima foto, come se fossimo dei giapponesi in gita. Allora Joe, come sta andando? Vieni qui al pontile che c'è un po' d'ombra, ti riposi un attimo. Furono pochi minuti di sosta, ma durarono apparentemente molto di più. Il Lino, mio papà, mi massaggiò le spalle. Io feci parecchio stretching per distendere le fibre muscolari contratte da quasi 2 ore di pagaiate continue. Cercai anche di mangiare un po' di grana per avere una riserva di energia, ma avevo la bocca così asciutta da non riuscire a farlo arrivare giù nello stomaco. Bevi quasi 1 litro di sali minerali, ringraziai mio papà e ripartii. Arrivai al controllo posto al 23° chilometro senza problemi. Una timbratura veloce, rifiutai il pacchetto di ristoro e ripartii subito. Per almeno 1 ora feci continuamente il monitoraggio delle sensazioni del mio corpo. E quando mi convinsi che il peggio era passato e che potevo controllare il mio fisico fino alla fine, ritrovai nuovi stimoli. La mattinata proseguì senza problemi, ad eccezione del caldo che aumentava continuamente e, complice l'umidità, creava qualche problema di respirazione. Guardai l'orologio, mi stavo avvicinando alla 5ª ora di navigazione. La stanchezza cominciava a farsi sentire, le braccia erano sempre più pesanti. Sapevo di essere vicino al secondo e ultimo controllo che mi apparve finalmente nel bel mezzo di un candido spiaggione. Stavolta mi sarei fermato e, oltre alla timbratura, mi sarei vuotato sulla testa una bella bottiglia d'acqua fresca. Mi ha aiutato ad andare avanti l'orgoglio. Non potevo, dovevo vincere la mia sfida, non potevo arrendermi. Ciao biondo, forza dai che non manca molto, mi disse l'addetto al rifornimento che probabilmente aveva letto la fatica sul mio volto. Quanto manca? Chiesi con un filo di voce. Ancora mezz'ora e poi vedrai spuntare dalle piante il cupolone della cattedrale di Casalmaggiore. Quando ci passerai davanti ti rimane da passare il ponte, dopodiché un pontile molto lungo. Ecco, quello è l'arrivo. Mi vuotai la bottiglietta di acqua minerale in testa e, deciso come un mulo ma stanco come un soldato, ripartii. Passai 10-12 curve quando finalmente apparve il cupolone, ancora più bello e grosso di quanto me lo aspettassi. Quella visione fu per me un altro pieno di energie, non sentivo più niente. Ripresi a pagaiare con rabbia mista ad una gioia al limite dell'incontenibile. Le mie braccia mulinavano come fossero fresche. Le pagaie tornavano a passare alte a fianco della testa, come da manuale. Ho perso il conto delle urla che lanciai in quei momenti. Passai sotto al ponte ed il pontile d'attracco si avvicinava. «Ce l'hai fatta, Joe!» urlò mio papà. L'emozione che provai quel momento mi impedì di rispondere. Mi scesero delle lacrime che cercai di nascondere, ma la soddisfazione era padrona del mio cuore. Arrivai al pontile, erano passate 5 ore e 45 minuti dalla partenza. Mi attaccai, gettai la pagaia sulla passerella di legno che copriva l'intelaiatura di ferro dell'attracco. Mio papà arrivò di corsa a darmi una mano, mi diede una grossa pacca sulle spalle. Mi aiutò a uscire dalla canoa lentamente, perché anche le gambe mi si erano atrofizzate. Non le sentivo più e non riuscivo a distenderle completamente. Aspettammo l'arrivo del gruppo. Nel frattempo sistemammo la canoa e mi feci una bella doccia. A distanza di pochi mesi, una notte, alcuni ladri disperati entrarono nel nostro club forzando la porta, rubarono pochi spiccioli e i nostri trofei. Della nostra storia sono rimaste le foto scattate da quel giapponese del Lino e i nostri ricordi. C'è sempre questa fase in ogni storia che si racconti, in qualsiasi, nei film, nei libri che leggiamo, la fase in cui a un certo punto il protagonista sta per mollare, sta per cedere per diversi motivi, perché è stanco, perché ha cambiato idea, eccetera, eccetera. E c'è sempre in quel momento qualcuno che lo convince a continuare. È il caso della storia di Giorgio e dell'addetto al rifornimento, ma è il caso di molti altri, perché ad esempio mi scrivono Claudio al 349-238-6666. Maratona di Torino, chilometro 41, crollo a terra divorato dai crampi. Già l'espressione divorato dai crampi mi fa male tutto solo a leggerla. Devo ancora sapere chi è stato l'angelo che mi ha messo in piedi e mi ha consentito di terminare la mia prima maratona. E invece su Facebook Davide dice: non con le stesse identiche parole dell'addetto al rifornimento, ma anche per me in Francia ho vissuto la stessa sensazione. Poco prima del terzo ristoro alla Transvesuvienne lo scorso anno, sfinito, stavo pensando di ritirarmi quando mi arrivò l'incoraggiamento di un addetto al controllo che mi diceva che ne avevo solo per altri 20 minuti prima del terzo ristoro. Alla fine ce l'ho fatta e sono arrivato a Nizza grazie anche a lui e al suo incoraggiamento. Insomma, ovviamente gran parte è la forza di volontà, un po' ci sono gli addetti al rifornimento o chi per essi che ti rimettono in piedi, e poi ci sono i papà che scattano la foto. Pronto Giorgio? Ciao Matteo. Come stai? Ciao. Io bene, benissimo, è stata una grande emozione risentire la mia storia raccontata da te. Era molto più lunga, Giorgio, tu lo sai che era molto sì, più lunga, però questi sono i tempi, quindi abbiamo fatto in modo di infilarcela. Comunque era bellissima. Beh, l'hai scritta tu, Lino? No, scusami, Giorgio, l'hai scritta tu. Grazie. Dimmi di Lino invece, come sta Lino? Lino sta bene, penso che stia ascoltando la trasmissione, approfitto per salutarlo. Beh, certo, anche perché lui è un po' coprotagonista di questa storia, nel senso che tu ti fai staremata dei 55 km e ogni tanto spunta lui a scattare foto, a farti massaggi, a farti ripartire in qualche modo. Sì, lui mi è stato vicino, mi ha incoraggiato fin da quando abbiamo preso la decisione per iscriverci, anche perché è da lui che è nata la passione per il fiume, per le barche, ed è lui che mi ha regalato la prima canoa. Ecco, bravo, perché torniamo lì. Ci sono in alcune zone d'Italia dei fiumi che sono proprio protagonisti della zona in cui si vive, no? Per me è il Ticino e per te invece è il Po, giusto? Quindi, sì, è il Po, e poi abbiamo anche l'Adda vicino. Comunque il Po, diciamo, è quello proprio dove abito. E quindi voi passavate proprio le estati al Po? Passavamo le estati, dalla primavera, quando iniziavano le belle giornate, si andava sul Po, si passava la stagione. Ho dei ricordi bellissimi. Tu, scusa, quando è che hai cominciato però a fare proprio, a pagaiare in maniera, non dico seria, però insomma, in modo da prepararti ad una gara di 55 km? Ma io ho sempre fatto i miei allenamenti sul fiume, anche da solo, perché è comunque uno sport faticoso, difficile da coinvolgere altre persone. E poi ho saputo che c'erano queste maratone e da lì è nato tutto. Un ragazzo che lavorava a Cremona ha portato l'idea e quindi così ci siamo iscritti e l'abbiamo fatta. E da lì poi per diversi anni poi l'ho fatta. Ecco, ah, non hai fatta una sola di Voga Longa? No, ne ho fatte diverse. Poi le difficoltà organizzative, eccetera, perché poi bisognava portare le barche, le iole. La mia canoa era la cosa più semplice perché la mettevi sopra il tetto di una macchina e andavi, ma le iole invece sono un po' più grosse. Cosa sono le iole, scusami? Le iole sono le barche a remi del club, sono quei gusci bianchi in cui da fiume, sono barche da fiume, comunque. Sì. Quante sì, ne hai fatte quindi di Voga Longa? Ne ho fatte 5 o 6, adesso non ricordo esattamente. Senti, e ti sei mai domandato? Cioè, immagino che uno se lo domandi mentre lo sta facendo, no? Ma perché lo sto facendo? Quando sei allo stremo delle forze. A freddo, invece, qual è il motivo per cui? Ma la voglia di vincere una sfida, di provare a vincere una sfida. Ok, la parola chiave è sfida, mi sembra. Giorgio, cosa fai nella vita? Io sono impiegato tecnico. Dove? Al comune? No, è una società che gestisce l'acqua potabile in provincia di Lodi. Ok, ma sei tipo geometra? Geometra, sì. Sei geometra, oh, sì, fine. Sì, perché sì, i geometri non ci tengono molto a dire che sono geometri, non ho mai capito il perché. Per esempio, anche, come si chiama l'amministratore delegato del Milan? Gagliani è geometra, ad esempio, ho scoperto. Però non è che si dica il geometra Gagliani. No, perché in fondo il geometra poi è una professione, chi fa il geometra lo fa proprio per professione, invece... Però mi piacerebbe ci fosse un po' più di orgoglio geometra, cioè che uno si presenta e dice: salve, sono il geometra Caccia, o sono il geometra Bonini, o sono il geometra Grisi, come nel tuo caso. Vabbè, farò una puntata sui geometri. Giorgio, ti ringrazio moltissimo per la storia e in bocca al lupo per le tue remate. Grazie a te, Matteo. Ciao, a presto, grazie, ciao. Ciao. Voi siete qui. Sembra quasi svedese o scozzese o tedesco. se ne dico un altro, tutto il nord Europa, così siamo a posto. Comunque, insomma, sembra nordico Giorgio nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla nostra pagina, come al solito. Voi siete qui. È biondissimo, non ha proprio le spalle da canoista, ha il fisico molto asciutto, ma ha le spalle, forse è la foto che non gli rende merito, un po' strette, però capello biondo spettinato, alle spalle un lago che sembra, direi dagli scogliere in fondo, sembra essere il lago di Garda, e lo sguardo decisamente fiero. Quella visione fu per me un altro pieno di energie. Non sentivo più niente. Ripresi a pagaiare con rabbia, mista ad una gioia al limite dell'incontenibile. Le mie braccia mulinavano come fossero fresche. Le pagaie tornavano a passare alte a fianco della testa come da manuale. È un po' il ritorno del grande sceneggiato radiofonico quando sentiamo la voce di Alessandra De Luca, che è di là dal vetro e che quindi salutiamo ogni tanto, così ci dà la gioia di venire a salutarci mentre è qui. Sentite, è partito qualcosa a caso, Paolino? Lo so. Ricordiamo che comunque su quel mixer c'è una scritta che dice: non succede niente, ma per qualunque problema chiamare Danilo, giusto? Sandro, certo, chiamare Sandro. Abbiamo caricato anche la foto del foglio che, diciamo, ti mette un po' in allerta. Quantomeno non succede niente, però Sandro è disponibile. 349-238-6666. Qualcuno che si palesa come l'angelo, come quello di cui parlavamo prima, quello che dà una mano a quelli che non ce la fanno più e li fa continuare. Io nel 97 o 98 aiutai un signore alla fine della maratona di Torino. Questa, direi, se c'è qualcun altro che ha svolto quel ruolo, che nella vita fa altro, ovviamente, cioè che non è che di mestiere aiuta gli altri a finire le imprese. Se però vi è capitato di trovarvi anche a coprire quella parte di identità, quello che aiuta qualcuno a finire le cose, non sarebbe male ricordarlo. 349-238-6666. Aprile. Faccio voto di andare a piedi da Casoria, provincia di Napoli, fino a Pompei. E io vorrei capire, voto dopo cosa o perché? Esattamente da Casoria fino a Pompei, stavo morendo, tra parentesi, gli ultimi 2 chilometri li ho fatti con la gamba sinistra che non funzionava più, ma è stato bello farcela. Non pensavo di farcela, di arrivare alla fine degli esami, invece ho tenuto duro. Settimana prossima mi laureo, Virginia, brava. 349-238-6666. Visto che oggi si parlava di canoa, abbiamo pensato di chiamare lui. Ci siamo quasi. Daniele Molventi è d'oro! Daniele Molventi, la terza medaglia d'oro dell'Italia. Arriva anche un ulteriore zavorra. Daniele Molventi è la medaglia d'oro, la terza di questi giochi olimpici. Quando a Bragagna parte così l'embolo è sempre divertente. Cioè, non è come ai tempi di Galeazzi. Lì era show totale. Però anche Bragagna ogni tanto. Ci siamo quasi. Pronto, Daniele, buongiorno. Buongiorno. Come stai? C'eravamo quel giorno. C'eravamo, giusto. Tu scusami, che impressione fa risentire una radiocronaca, una telecronaca che tu avrai sicuramente sentito prima di oggi riguardo a una propria impresa? Diciamo la pelle d'oca non si vede in radio, però fidatevi che torna sempre. Allora, giusto per dare qualche indicazione, Daniele, perché poi appunto se dici il nome di un calciatore di terza fascia di una squadra, probabilmente le persone le conoscono, ma se non stiamo facendo i giochi olimpici, probabilmente ci dimentichiamo che Daniele Molventi è stato oro a Londra, poi ha vinto 2 mondiali, ha vinto una Coppa del Mondo, 5 europei e 24 titoli nazionali, o ori nazionali. Uh-huh. Giusto, Daniele? Sì, forse 25, perché forse 25. Non è aggiornato. E in più, non è aggiornato. E in più, qualche giorno fa abbiamo vinto qualcos'altro a Praga, giusto? Un altro oro. Un altro oro a squadra, è sempre un campionato del mondo, diciamo nella singola non benino, però nella squadra, che quella che siamo uno dietro l'altro, in 3 di noi, sì. Abbiamo portato a casa, insomma, la medaglia d'oro, quindi un altro titolo mondiale. Nelle squadre non c'è storia, siamo i più forti. Mi metto sì. Ovviamente nella squadra, Daniele, perché sennò siamo tutti italiani, quindi... Mi sento di far parte. Noi siamo là e rappresentiamo tutta l'Italia. Anzi, ho visto il video proprio qualche minuto fa, perché sto guardando via Facebook, e non mi sono accorto che eravamo tra l'altro con le canoe colorate come la bandiera italiana. Io la rossa, De Gennaro verde forestale, quello in mezzo di noi era, ce l'aveva bianca. Perfetto, manco a mettersi d'accordo. Dove sei, Daniele, adesso? Io sono a casa, sono rientrato dai mondiali, appunto. Io sono a casa a fare un po' di burocrazia, pagare le tasse. Oggi cosa devi pagare oggi? Le scovazze. Cioè? Ah, le immondizie. Ah, ok, la Tarsu, come si chiama da voi? Si chiama Tares. Tares, sì. Ma scusa, ma non esiste un'esenzione fiscale per gli olimpionici? Ma dovrebbe esserci una legge. Hai vinto una medaglia d'oro, non paghi più le tasse. Cioè, ma se non lo guarda, fate voi... No. Ma direi la verità, ne ho pagate così tante col premio medaglie di quelle Olimpiadi che se dovrei essere a posto per un bel po' di pares, diciamo. Ma perché, scusami, invece... tu paghi le tasse sulla medaglia d'oro in sé, sull'oro che porti a casa? Perché i giornalisti hanno scritto che i medagliati prendevano 140.000 euro, no? Diventavano ricchi, tutto un tratto così. Però non hanno detto che ci pagavamo su... Quindi ti porti a casa 70.000 euro in realtà alla fine? Sì, beh, tra una cosa e l'altra, alla fine abbiamo dovuto dare noi i soldi indietro, del ma... genere. Daniele, senti, com'è che hai cominciato a salire su una canoa, a prendere in mano delle pagaie? Ma io a dire la verità non mi ricordo. Avevo cominciato a dire che era un'estate che faceva caldo, questi qui si divertivano con la barchetta nell'acqua e... ed era carino dirla così. Poi in realtà un giorno mia mamma mi ha corretto e ha detto che guarda Daniele, che era settembre, faceva un freddo cane, e tu hai voluto provare questo sport perché tuo fratello già lo faceva, no? Okay. E allora in teoria la verità è quella lì, però io davvero non mi ricordo. So che la prima volta che ho messo il sedere in barca ho cominciato a navigare sull'Uncello, che è un fiume facile, insomma, qui di Pordenone, e ho avuto una sensazione particolare, che potevo davvero fare quello che volevo. È un po' come andare in giro in macchina senza traffico, no? Quindi hai quella sensazione di essere il padrone della situazione. Il capo del fiume sei, praticamente. Il capo del fiume, sì. Senti, com'è che fate le vacanze? Cioè, ad esempio, tu quest'anno come ce l'hai davanti? Sai già tutto? È già tutto stabilito? Allenamenti tot, poi c'hai 3 giorni di riposo, poi c'hai la gara, poi... Sì, beh, noi abbiamo un piano... Io... per dire la verità ce l'ho già fino al Brasile 2016, le Olimpiadi. Adesso avrò un mese, diciamo, di ottobre un po' più tranquillo, se vogliamo, dal punto di vista di allenamenti, anche se avrò diverse giornate di promozione, l'Adige Marathon a Verona, poi andrò a portare la Maratona di Venezia. Sì, insomma, è un po' di sono diverse di cose istituzionali. Sì. Tu cosa sei? Fiamme Gialle? No, tu sei forestale, giusto? Forestale. Sei forestale. Sì, ma sì. Ad esempio, perdonami, tu da un punto di vista, diciamo, burocratico o professionale, sì. cosa devi fare per la forestale? Ti capita di andare in ufficio? Devi portare del... Ma diciamo che il mio compito principale è portare le medaglie. Okay. Mondiali e Olimpiadi. Okay. Non abbiamo obbligo... obbligo d'ufficio, nel senso, chiaro. Loro dicono finché sei in squadra nazionale ti serve allenarti da professionista, noi ti diamo l'opportunità di farlo con i nostri colori. Ok, sì, insomma, come succede per gli olimpionici, sì, quelli che lo fanno di mestiere. Diciamo, ma è l'unico modo che c'è in Italia di fare, diciamo, questi sport, sì, che non sia il calcio. Chiaro, vabbè, quindi, sì, far fortuna. Parte di un corpo. Senti, usi tantissimo Instagram, ho visto, Daniele, ci sono un sacco di foto bellissime, tra l'altro dei luoghi di vacanza. Dov'è che vai in vacanza uno come te, che sta al fiume, sul fiume tutto il giorno? Ma di solito in montagna, io amo molto la montagna e quando posso vado sempre su, tra l'altro vivo qui vicino alle Alpi Friulane, quindi di giro dalle parti, le parti di Erto, diciamo, dove c'è Mauro Corona, certo, che è un caro amico, certo. Quindi insomma cerco di andare più lontano possibile dai giornalisti, anche se ogni tanto me li trovo anche lassù, ecco. Senti, invece dimmi, visto che sei friulano, è vero quello che si dice sui friulani? Siamo dei grandi amatori. No, volevo capire se tu avevi in mente uno stereotipo sui friulani, perché in realtà i friulani se ne stanno un po' per i fatti loro, no? Però ci sono un sacco di friulani che sono chiusi, i friulani sono simpatici, i friulani sono chiusi, ma quando diventano amici sono i più amici di tutti. I friulani bevono, no, i friulani non bevono. È vero quello che si dice in generale? Guarda, non ci io ce ne sono mai conosciuti, mi pare insomma che siamo abbastanza simpatici. E a dire la verità, il giorno dopo il mondiale io ero già nei campi a vendemmiare, quindi pur sono un atleta, nel senso che non siamo tutti alcolizzati, come hanno detto alcuni chi l'ha detto? Paolo Villaggio, mi pare. In una... Vabbè, Paolo Villaggio ormai però è una scheggia impazzita, insomma, dice qualsiasi cosa. Sì, era quindi... un po' esagerato. Vale un po' tutto. Però vale diciamo un po' che ci piace bere bene, e questa fa la differenza, insomma, anche perché noi riproduciamo ottimi vini. E come no, cioè... Io anche. Ah, anche tu, fai anche il vignaiolo. Diciamo che quel poco che ho preso l'ho investito nella terra. E, insomma, quest'anno è stata la mia prima vigna ufficiale. Come è venuta? Bene? Ma bene, sono belle giornate, il vino è tenuto bene, nonostante la primavera un po' scarsa. E poi ti devo salutare, che vino è? Che vino fai? Ma un po' di tutto, io punto sul Prosecco ovviamente, ti manderò una bottiglia. Ma anche no, guarda, va bene lo stesso, mi stai simpatico comunque. Daniele, ti ringrazio. Daniele Molmenti, medaglia d'oro a Londra e grandi cose per Rio, giusto? Sì, la programmazione ricomincia da novembre, questo faccio un mese più tranquillo, poi vado in viaggio di nozze a Tokyo e poi a novembre si ricomincia. In bocca al lupo. Ciao Daniele, grazie, buona giornata. A voi. Ciao, grazie. Grazie a lui, abbiamo finito. Grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ine e Paolino Corleoni. Grazie soprattutto a Giorgio. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Roberto e vivo a Noale e la storia di domani è la mia e parla del ruolo del portiere. Questa è la mia storia e io sono qui.